Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, otto minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economica, preciso subito che siamo in diretta da Capri, dove si è praticamente appena conclusa l'ottava edizione dell'appuntamento più importante in Italia sulla digitalizzazione del paese. Detto così sembra molto esoterico, in realtà si è discusso per due giorni con i protagonisti dell'information technology, i protagonisti delle telecomunicazioni, quindi di chi deve trasportare questi contenuti sul digitale, e la politica e le imprese su come far fare un salto, un'accelerazione a questo paese in tema di digitale. Detto così uno dice vabbè, il digitale è un po' un esoterismo. No, guardate, i dati usciti oggi, e poi ne parleremo ampiamente nella seconda ora, sono impressionanti. L'83% delle imprese fallite l'anno scorso non era digitalizzata, che non vuol dire che basti essere digitalizzati per, e quindi avere un investimento nel digitale per non fallire, ma l'83% non lo era. E ancora il numero di imprese che utilizza in maniera attiva e proattiva l'economia e le strutture digitali in questo paese è solo il 5% del totale. A fronte di questo, l'impegno chiesto al governo, che non sia solo un impegno di facciata o di così per attirare consenso politico, ma un impegno di leadership, quindi di metterci la faccia, l'impegno chiesto alle imprese affinché capiscano che l'economia digitale non è uno slogan, ma è un modo per aumentare i fatturati riducendo i costi, aumentando i profitti e anche diversificando le aziende, appunto mettendo una specie di polizza assicurativa sulle imprese, e l'impegno chiesto poi ai players, da Telecom Italia in giù, di non limitarsi a dare l'offerta in base alla domanda che c'è. L'esempio che è stato fatto più volte riguarda l'autostrada del sole degli anni 60. Non si costruì quell'autostrada sulla base del parco macchine presente, altrimenti avresti fatto una normale statale. Si guardò più in là. Ecco, al mondo dei player delle telecomunicazioni viene chiesto di non limitarsi a dire questa è la domanda e noi ti diamo questa offerta, ma di aumentare la velocità, le autostrade digitali del paese, anche se la domanda ancora non c'è, ma una legge economica classica ti dice che è l'offerta molte volte che crea la domanda. Non basta dire non c'è la domanda e quindi io mi limito a far viaggiare il paese a 3 o a 4 o a 4 giga. Di questo parleremo più avanti, perché le cifre proiettate anche sull'aumento dell'occupazione oltre che dei fatturati e degli utili delle imprese sono impressionanti. Ed è un'opportunità che va sfruttata adesso, quando il governo ha messo a disposizione 2 miliardi e 700 milioni di euro per la digitalizzazione del paese. Telecom Italia ha un piano di investimenti per 10 miliardi in 3 anni proprio sulla cosiddetta banda larga. Ne parleremo tra poco, dicevo. Per il resto i mercati finanziari oggi sono positivi, modestamente positivi, dello 0,4% Milano e dello 0,4% anche Parigi, Francoforte più 1%. L'America più 0,20%, Londra più 0,75%, bene Fiat Chrysler più 2,5% come Tod's e Saipem, l'1,40% lo guadagna Ferragamo ma anche Unipulsai ed Enel, l'1,30% è il rialzo di CNH Industrial ed ST Microelectronics ma anche di Telecom Italia. Il fronte opposto invece vede in calo Mediaset del 4,36%, ne parleremo nel corso dei mercati finanziari, Yux Net-a-Porter realizzi perde il 3% in questo momento, e ancora su Mediaset c'è il dato sugli abbonati premium, buoni dati ma sotto le aspettative. Dicevo, altri titoli: Buzzi Unice meno 2,30%, Mediolanum meno 2,14%, Monte dei Paschi meno 1% come Mediobanca e A2A. Oggi, essendo venerdì, purtroppo o per fortuna, diciamo purtroppo, è anche l'appuntamento con la poco invidiabile classifica di Focus Economia, e quindi i 5 sprechi, malfunzionamenti, inefficienze della pubblica amministrazione della settimana, ma anche il caso virtuoso dell'imprenditore. Non è una start-up questa volta, ma è un imprenditore che dall'alto della sua esperienza e anche della sua età ha deciso di fare un investimento importantissimo sui giovani, quindi è un modello, se vogliamo, non dico più forte, ma che tiene assieme quello che è la famosa solidarietà generazionale, di cui molto si parla e poche volte si vedono i soldi e gli investimenti. Questo è un caso virtuoso che portiamo molto volentieri. Rapidamente adesso le altre notizie in breve. Partiamo dalle notizie internazionali, come sempre, per quello che riguarda l'economia internazionale. Oggi, mentre ieri dal Fondo Monetario era emerso anche un'intenzione, diciamo, più prudente della Banca Centrale Americana, della Federal Reserve, sugli aumenti dei tassi nel 2015, la Fed ha ricordato come preoccupi il rallentamento della Cina e anche, diciamo, la bassa inflazione che resterà sotto il 2% anche negli Stati Uniti nel breve termine. Oggi Mario Draghi ha detto che la Banca Centrale Europea è pronta a usare ogni leva per dare a fronte degli sviluppi dell'economia, e anche la durata e la dimensione del quantitative easing, quindi dell'acquisto di titoli di Stato da parte della BCE, potrebbe cambiare. Lo ha detto sempre nel corso del meeting del Fondo Monetario a Lima. E poi ha detto Draghi: i paesi con un alto debito, tra cui c'è chiaramente l'Italia, stiano attenti agli effetti dei rialzi dei tassi di interessi. Oggi ha parlato Schäuble, che è stato zitto tutto il tempo, il ministro delle finanze tedesco, l'economia tedesco durante la crisi di Volkswagen, però non si dimentica di parlare quando c'è da bacchettare un po' la Banca Centrale Europea. Ha detto Schäuble: gli effetti del quantitative easing sulla crescita sono meno potenti delle attese, le politiche di bilancio e monetarie espansive non risolvono i problemi. Ha ragione Schäuble, non risolvono i problemi se le politiche di bilancio monetarie espansive non vengono accompagnate anche da politiche degli investimenti a livello europeo, investimenti pubblici per far ripartire gli investimenti privati e far ripartire l'economia. E questi investimenti devono essere fatti anche al di là della semplice applicazione ragionieristica del patto di stabilità. Questo lo diciamo noi a Schäuble, visto che di questo la Germania ha sempre fatto un grosso mantra. Andiamo all'Europa. Oggi ci sono dei dati sulla produzione industriale buoni per la Francia, più 1,6% il rialzo della produzione industriale. La produzione manifatturiera ha dato la crescita più importante, la componente più importante, più 2,2%. Buona la produzione industriale italiana, anche se è in calo dello 0,5% ad agosto rispetto a luglio. È in aumento dell'1%, che è la cosa che più ci interessa, rispetto a un anno prima. A questo punto, nei primi 8 mesi dell'anno, la produzione industriale ha fatto più 0,8% rispetto allo stesso periodo del 2014. La componente più importante qua è il settore auto. La produzione auto ha fatto più 48% ad agosto sull'anno prima e più 44% nei primi 8 mesi dell'anno rispetto ai primi 8 mesi del 2014. Oggi nel corso di vari interventi, vi sono state qui a Capri nel forum Ernst Young sul digitale e crescita, ci sono stati anche interventi su notizie d'attualità. Il sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico Antonello Giacomelli ha, in merito alla vicenda pagare il canone Rai in bolletta, ha detto: non credo che la presidente dell'Enel Patrizia Grieco sia in alcun modo ostile al canone in bolletta, è una soluzione difficile da molti punti di vista, aveva detto nei giorni scorsi la presidente di Enel. Greco, secondo Giacomelli, ha voluto solo segnalare che ci sono questioni tecniche da affrontare e la disponibilità dell'Enel a farlo, ed è quello che sta avvenendo. Sempre Giacomelli ha anche ricordato che gli operatori telefonici si sono impegnati a coprire il 21% delle abitazioni, quindi una su cinque, entro il 2018 con la FTTH, la Fiber to the Home, no? la fibra nelle case degli italiani. Ricordo che l'anno scorso ha raggiunto solo il 2,4% della popolazione. Ne parleremo più avanti, perché è chiaro che deve esserci anche la parte infrastrutturale in tutto questo ragionamento sui benefici della digitalizzazione. Allora, oggi notizia che due bambini, di cui un disabile e la loro maestra, sono rimasti leggermente feriti dopo essere stati colpiti da alcuni calcinacci in un'aula della scuola Don Bosco a Favara, in provincia di Agrigento. Noi, insomma, aspettiamo ancora che parta in maniera forte il piano per l'edilizia scolastica, vale 3,7 miliardi di euro, è un piano triennale dal 2015 al 2017. Va detto che quest'anno sono stati sbloccati 905 milioni destinati a finanziare i progetti proposti dai comuni e verificati dalle regioni. È un mix di fondi, in realtà un po' europei, un po' di prestiti della Banca Europea degli Investimenti e poi mutui a tassi agevolati. Ci sono vari piani di intervento, uno di questi è appunto quello relativo alla scuola sicura, che punta a mettere in sicurezza gli edifici. Sono stati finora finanziati 2.328 interventi per 550 milioni di euro, anche se, vorrei ricordarlo, secondo Save the Children il 45% delle scuole della penisola è priva di un certificato di agibilità e o abitabilità, e il 54% degli edifici dove studiano i nostri figli non è in regola con la normativa antincendio, il 32% non rispetta le norme antisismiche e il 40% degli edifici scolastici si trova in zone a rischio sismico. E visto che di questo parlavamo, vediamo invece come vengono utilizzati o non vengono utilizzati i soldi dei nostri enti locali. È ovvio che la classifica, vedo già molti messaggi, dovrebbe avere il primo posto, diciamo, quello che è successo a Roma, ma non vogliamo infierire né sul sindaco Marino o l'ex sindaco Marino né sulla vicenda delle note spese. Ci sono altre vicende di altre amministrazioni locali che dobbiamo raccontare anche questa settimana. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. La classifica della settimana. Oh, ci occupiamo di medicina nella parte bassa della classifica. Perché lo dico? Perché abbiamo un insieme di notizie che nessuna delle quali è devastante, ma tutte assieme dicono che, insomma, l'arretratezza di alcune parti del paese. Allora, da un lato abbiamo la facoltà di medicina e partiamo dall'Università di Palermo. Le lezioni di medicina all'Università di Palermo sono cominciate con un flop perché 1.000 studenti sono stati costretti a seguire le lezioni in streaming. Ho capito che stiamo parlando dell'economia digitale, o dice, vedi che bravi, fanno lo streaming. No, hanno dovuto fare lo streaming perché i docenti vincitori del concorso non sono stati assunti e quindi con solo due professori per fare lezione per 1.000 studenti si è ricorso allo streaming. Oddio, può essere un modo per digitalizzare in maniera forzata il paese, non mi sembra un modo così virtuoso, anche perché lo streaming non ha funzionato, dicono alcuni studenti, l'audio era pessimo, i docenti non erano nemmeno inquadrati, e ti chiedi che cosa stesse inquadrando lo streaming. Seguire è stato impossibile perché non ci si è attrezzati prima sapendo che ci sarebbero stati problemi. In effetti, voglio dire, se i vincitori del concorso non sono ancora stati assunti, almeno potevi attrezzarti bene con lo streaming. Allora, tant'è che proprio per i problemi legati a questo maledetto streaming, alcuni corsi di medicina sono stati interrotti, le lezioni sospese, gli studenti costretti a tornare a casa. È stato anche annunciato lo stop alle lezioni queste settimane in attesa di risolvere i problemi tecnici. Di fronte alle proteste, i tecnici hanno riferito di aver avuto l'incarico di predisporre le apparecchiature aule solo il 1 ottobre, 4 giorni prima dell'inizio dei corsi. Ora io non so, dovrei chiedere agli ospiti di questo appuntamento sul digitale se 4 giorni siano tanti o sono pochi per predisporre uno streaming. Faccio notare però che magari il preside della facoltà di medicina poteva avvisarli anche un po' prima, non penso che abbia saputo all'ultimo che i docenti vincitori di concorso non sarebbero stati assunti. Il risultato è che chi l'ha presa in quel posto sono stati 1.000 studenti all'inizio proprio del loro corso, corso di onore mica tanto, corso diciamo di disonore in questo caso. E poi, visto che parliamo di economia digitale, bisogna anche imparare dalle basi, l'ABC. Per esempio, è importante sapere come si fa un copia e incolla, no? Il paste. Lo dico alla ASL, e siamo sempre in tema di sanità, di Pescara, perché io capisco che la poca voglia di lavorare porti a fare i bandi e fare le copie e incolla del bando che hanno fatto già altre amministrazioni comunali, ma almeno ricordatevi di cancellare il nome, fatelo bene il copia e incolla, cioè voglio dire almeno copia bene. Cosa è successo? Che la segreteria provinciale della FIAS, che è la Federazione Italiana Autonomie Locali Sanità, ha denunciato che in una recente gara di appalto della ASL per l'assistenza sanitaria domiciliare, l'ASL ha redatto il seguente bando. Per i modelli 2 e 3, sulla seconda pagina, al punto B, i dati forniti dalle imprese nel procedimento di gara saranno oggetto di trattamento da parte del comune di Prato. E lì nasce lo smarrimento, come la ASL, quella di Pescara, e il comune, quello di Prato. No, si sono dimenticati di, nel copia e incolla, di cancellare, di cambiare da parte del comune di Pescara. Io dico, volete copiare, copiate bene, tant'è che c'è un ricorso perché la FIAS denuncia che alla ASL i funzionari fanno un copia e incolla senza neanche rivedere che cosa vanno ad indire. Praticamente la gara per l'assistenza domiciliare a Pescara avrebbe come titolare del trattamento il comune di Prato. Mi sembra un po' complicato, non è che proprio Prato-Pescara sia dietro l'angolo. E ha chiesto la FIAS l'immediata revoca dell'appalto e l'immediata rimozione del funzionario responsabile. E poi ha aggiunto, in classe abbiamo copiato tutti, beh non tutti, dai, so. Ma se a farlo un ente pubblico ha un peso diverso. Sì, aggiungo, se lo fa pure male anche il copiare, siamo a cavallo. Comunque, complimenti. In effetti qualche funzionario andrebbe rimosso nella ASL, no? Se no restiamo sempre le chiacchiere. Complimenti al comune di Pescara e alla ASL che per assistere domiciliarmente i suoi cittadini si avvale del trattamento da parte del comune di Prato. Andiamo nella parte alta della classifica. Oggi c'è molta sanità, non l'abbiamo fatto apposta, è in base a quello che troviamo che Barbara Bianchi e Mauro Del Corno reperiscono sui giornali, quindi date la colpa a loro, anche le querele mandatele a loro, così siamo tutti tranquilli. No, dico, è in base a quello che troviamo sui giornali, lo spiego molte volte, non scopriamo niente di nuovo, facciamo solo una specie di rassegna stampa della poco invidiabile attività della nostra pubblica amministrazione. Perché parliamo di sanità? Ma andiamo in Puglia. Perché all'ospedale dell'Ellis di Mesagne, in provincia di Brindisi, c'è una bellissima TAC, bellissima, che è costata più di 200.000 euro, è tanto bella, ma così bella, che hanno deciso di tenerla imballata e conservarla, perché sennò c'era il rischio pure di rovinarla sta TAC. Tra l'altro è anche una TAC rara, ce ne sono poche negli ospedali di Brindisi, l'ha acquistata l'azienda sanitaria locale di Brindisi nel 2011, doveva rappresentare un prezioso strumento per consentire ai pazienti di non spostarsi negli altri ospedali, e da qui appunto le liste d'attesa avevano già raggiunto a quel tempo per un TAC i 12 mesi, cioè fai tempo a essere morto dopo 12 mesi. L'hanno comprata nel 2011, ma se la stanno guardando con attenzione, visto che è ancora imballata e conservata. Il caso in realtà è esploso a marzo, c'è stato anche un sopralluogo dell'onorevole Antonio Mattarelli, e il direttore generale dell'ASI in quell'occasione, si chiama Giuseppe Pasqualone, assicurò che i lavori necessari all'installazione della TAC sarebbero partiti entro poche settimane. Ecco, non facciamo sta cosa che arriva l'onorevole, assicuri che partono i lavori, questo è marzo. Dottor Pasqualone, insomma, ancora lì ce l'avete TAC. A maggio aveva garantito che sarebbero stati effettuati i primi esami diagnostici. Adesso dice Pasqualone che i lavori per il ripristino dei locali e l'installazione della TAC inizieranno lunedì 5 ottobre. Quindi inizieranno il 5 ottobre, che è già passato, i lavori per il ripristino dei locali e l'installazione della TAC. Cosa è successo? È successo che questi lavori erano stati dati a una ditta che aveva vinto la regolare gara d'appalto, poi ha dichiarato il fallimento, i lavori sono stati bloccati, metà della cifra stanziata per i lavori era già stata pagata e dunque era impossibile reperire altro denaro per una nuova procedura d'affidamento. Ho capito, però insomma, cioè, in qualche modo si potrà anche trovare una soluzione diversa per far partire questa TAC. E comunque non è spiegabile che sia lì ferma dal 2011. Voi direte, chi se ne frega, mica tanto se devi fare la TAC e l'alternativa è fare 80 o 100 km e attese di svariati mesi. Oh, vorrei chiudere in bellezza con un ex aequo, perché dal secondo, poi arriviamo al primo posto. Al secondo posto c'è la regione Sardegna. E la notizia è molto breve, ma me la dice tutta. Allora, questo è un capolavoro. Io vorrei capire come ha fatto la regione Sardegna ad acquistare per 50 milioni di euro in una regione con un altissimo tasso di disoccupazione, con grossissimi problemi anche del sistema produttivo e industriale, ha speso 50 milioni di euro per comprare 8 treni pendolini dalla società costruttrice spagnola CAF. Bene, anche perché non è che il trasporto ferroviario sardo, cioè, sia il massimo della vita. Ogni tanto, se prendi un treno, ti aspetti l'assalto degli indiani, le carrozze, John Wayne. E allora, i treni avrebbero dovuto abbattere i tempi di collegamento tra le varie regioni dell'isola e quindi in grado di viaggiare fino a 160 km all'ora. Attualmente la velocità massima è 120, la media è intorno agli 80-70 all'ora. Bellissimo. Comprati i treni, spesi 50 milioni, arrivano i treni e si rendono conto che non possono andare su quei binari. Sfiga, ha voluto che hai preso il treno sbagliato. Ma guarda che ci sarebbe da piangere. La rete ferroviaria sarda non è adatta a far circolare i nuovi treni. Nessuno l'aveva avvisata la rete ferroviaria sarda, hai capito? Perché poi questa, se non l'avvisi, si arrabbia. L'ammodernamento dei convogli, pensate un po', richiederà una spesa ulteriore di almeno altri 49 milioni, cioè il doppio di quanto hai speso per non ho capito per ammodernare come gli 8 pendolini. Perché questo? Perché devono rimuovere alcune strozzature, ossia proprio il treno non ci passa, e poi posare il doppio binario dove ce n'è solo uno. Ma non ci poteva pensare prima? Ora, dice, dov'è che c'è un solo binario invece che due nella rete ferroviaria sarda? Dappertutto. C'è solo un punto in cui ce ne sono due. Sono 60 km da Cagliari a San Gavino. La tempistica non è stimabile, quindi gli otto pendolini resteranno lì, magari assieme alla TAC, a questo punto del Brindisi, facciamo un museo degli investimenti proficui della pubblica amministrazione di questo paese. Ma anche lì, ma qualche funzionario pagherà per non aver valutato che questi treni non potevano circolare sulla rete ferroviaria sarda, che non è che una scoperta nuova, siccome non l'hanno modernata negli ultimi 100 anni, è 100 anni che sappiamo come è fatta questa rete ferroviaria. No, l'hanno scoperto una volta acquistati i treni. Meteo, pubblicità e poi al primo posto Roma, ma non per Marino, non per le spese che poi ha rimborsato, Roma per la mitica ATAC. Nel passato abbiamo raccontato non solo i costi e il buco stratosferico della società dei trasporti romana, abbiamo raccontato anche dell'organico pletorico, dei dirigenti, quant'altro. Dice, vabbè, però avranno i soldi per fare gli investimenti seri? Sì, ne parliamo dopo il meteo. Focus Economia. Minuti. Allora, al primo posto della classifica oggi, dicevo, Roma, ma non per le spese di Marino. Qualcuno mi sta scrivendo, ah, vedo che difendete Marino. Guardi, tutto tranne che difendere Marino. Se posso permettermi, mi sembra che tutta la vicenda che riguarda l'ex sindaco di Roma, quella delle note spese, fosse una vicenda sicuramente l'ultima goccia, quella che ha fatto traboccare il vaso, però marginale, inutile fare gli ipocriti. Non è certo che se poi vai a falsificare le dichiarazioni è un altro paio di maniche, però non è, diciamo, non è su quanto hai speso a cena che si valuta un sindaco e basta, è su tutto il resto, diciamo, che non funzionava. Ma detto ciò, andiamo al vincitore della settimana. And the winner is l'ATAC, la mitica azienda municipalizzata dei trasporti di Roma, che ha un'esposizione finanziaria, vuol dire un debito, per 874 milioni di euro. Dici, come cavolo hai fatto a farlo? Boh. In estate il comune l'ha anche dovuta ricapitalizzare, lo impone il codice civile, non è una scelta del comune. Le perdite infatti avevano già bruciato un terzo del capitale. E quindi l'operazione di ricapitalizzazione dell'azienda, sostanzialmente in parte con un'operazione sul patrimonio e per il resto con 40 milioni di euro di non meglio specificati risparmi sul contratto di servizio, cioè i soldi pubblici che il comune e la regione versano alla società. Ora, la cosa che a me fa impazzire è che un'azienda che riesce ad arrivare a un buco e un debito di quasi 1 miliardo di euro dovrebbe, dice, almeno avrà investito nel sistema infrastrutturale dei trasporti romani, cioè avrà gli autobus più belli, le linee, i tram, i collegamenti fatti meglio. No, in realtà il grande buco dell'ATAC, con buona pace dei sindacati dell'ATAC, si genera grazie al personale dell'ATAC, perché ci sono 62 dirigenti, dicesi 62 dirigenti, 12.000 dipendenti, che faccio notare sono oltre 2.000 in più di Alitalia. Ora l'Italia già non è un mostro di, non era un mostro di efficienza, ma che l'ATAC abbia 2.000 dipendenti più dall'Italia non si può sentire. 12.000 dipendenti. E tra l'altro con una produttività, abbiano pazienza i sindacati, che lascia un po' perplessi. Le ore lavorate dagli autisti dell'ATAC romana sono 736 in un anno. Ci fu anche uno sciopero bianco perché Marino voleva farle alzare queste ore lavorate. Pensate che a Napoli sono 850 e a Milano 1200. Ora insomma sei quasi alla metà. E non è che gli autisti a Milano vengono schiavizzati, o comunque non dico devi arrivare a livello milanese, ma almeno alzare a 1000 ore si può fare, niente da fare. Nel frattempo però i 2500 autobus con un'età media di 10 anni, il che vuol dire che 700 non sono utilizzabili, si rompono ogni giorno in media 300 autobus, quindi ne escono più o meno 1400 al giorno. Per fronteggiare il giubileo era stato deciso uno sforzo eccezionale, l'acquisto in leasing di 700 nuovi autobus, ma la gara è andata deserta. Perché? Ma perché nessuno ti fa un leasing se tu non hai ancora approvato il bilancio a ottobre 2015. Il bilancio del 2014 non è ancora stato approvato all'ATAC, tant'è che si è dimesso l'amministratore delegato Danilo Broggi. Ha formalizzato anche il direttore generale, insomma è allo sbando completo. L'ultima chicca per quello che riguarda l'ATAC è che ha trovato i soldi per fare un buco per quasi 1 miliardo di euro in questi anni, ma non riesce a trovare i soldi per fare funzionare quello che era uno dei pochi vanti dell'ATAC di Roma, i famosi mini autobus elettrici, si chiamano Gulliver. Roma, in occasione del giubileo del 2000, era la città che ne aveva più di ogni altra città europea gli autobus elettrici, quindi era un vanto vero. Ora, nel 2015 potremmo tranquillamente certificare l'estinzione dei mini autobus elettrici romani. Dei 60 che ne aveva Roma, ne sono rimasti in circolazione 8. Gli altri sono in un cimitero a Trastevere. E perché gli altri non circolano più? Perché non ci sono i soldi per sostituire le batterie e quindi gli autobus vanno in rottamazione. Questo è un paese che si appassiona alla rottamazione. L'unica cosa che stiamo rottamando in questo momento sono gli autobus o le TAC imballate. Cioè tu riesci a fare quasi 1 miliardo di buco, ma non riesce a trovare i soldi per le batterie degli autobus che ti ponevano all'avanguardia, visto che erano mini autobus elettrici. Beh, un grande applauso all'ATAC che ci regala anche oggi un poco invidiabile primato. Allora, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Vista la depressione, visto il maltempo che adesso sta arrivando anche al sud, vorrei tirarmi, e spero tirarvi un po' su di morale, con la storia che stiamo per raccontare. Di solito in questo momento noi abbiamo sempre un imprenditore non giovane, ma che ha lanciato una nuova attività, una start-up, come si chiama in gergo, per dare il segnale che c'è chi in questi anni di crisi si è rimboccato le maniche. Questa volta abbiamo un imprenditore che non è più giovane, ma ha fatto una cosa bellissima per i giovani. L'azienda, l'impresa è un'impresa farmaceutica, si chiama Alfa Wasserman, ed c'è un nuovo gruppo che in realtà è nato dalla fusione tra Alfa Wasserman e il gruppo Sigma Tau. L'azienda Alfa Wasserman fu fondata a Bologna nel 1948, è tra i primi gruppi farmaceutici italiani, comprende oggi 12 imprese operanti in altrettanti paesi, esporta in 60 paesi, 1400 dipendenti, di cui 670 in Italia, e appunto pochi mesi fa, nel maggio dell'anno di quest'anno, ha acquisito anche Sigma Tau, facendo nascere un gruppo da 900 milioni di fatturato, 2.800 dipendenti, di cui 1.900 in Italia. Il gruppo è posseduto al 75% dalla famiglia Golinelli e l'altro 20% fa capo alla famiglia Cavazza di Sigma Tau, poi Intesa San Paolo ne ha il rimanente 5%. Perché ne parliamo? Voi direte che non c'è nessuna startup, perché il fondatore, che è il cavaliere Marino Golinelli, ha da poco annunciato un'operazione bellissima, che non lo dico senza retorica: se ogni imprenditore facesse così, se ogni amministratore della cosa pubblica avesse la stessa sensibilità, questo paese sarebbe altro che la Germania, sarebbe la Svezia. Cavaliere Golinelli, buonasera. Buonasera, sono qui pronto. Oh, eccomi. Cavaliere, è una cosa che non si chiede mai alle donne, ma a lei lo posso chiedere: quanti anni ha? 95. 95, complimenti. Oh, un augurio per tutti. Mi dica una cosa, cosa le è venuto in mente a 95 anni di investire 12 milioni di euro per recuperare l'ex stabilimento industriale, l'opificio Golinelli, che avete inaugurato domenica scorsa, e con la fondazione Golinelli investire altri 30 milioni di euro per un progetto che si chiama Opus 2065? Qual è l'obiettivo? L'obiettivo nasce da un'idea di 27 anni fa della fondazione, che è tipo americano, anglosassone, quindi privata, filantropica, operativa, ecco, quindi agisce per aiutare i giovani dai 18 mesi ai 35 anni, i giovani per il futuro loro, perché affrontare il mondo del 2065, ecco, Opus 2065, il mondo immaginabile e per i quali i giovani noi riteniamo sia utile per loro, per il nostro paese, eccetera, preparati per essere presenti in un mondo globale, essere presenti quindi giovani preparati per un lavoro a livello internazionale. E quindi l'Opus 2065 investirà i 30 milioni per nuove forme didattiche, per aiutare a sviluppare quelle che i giovani già oggi, dai 15 ai 20 anni, il giardino delle imprese. Ecco, questa è l'idea, giardino delle imprese. Dai 17-20 anni già idee per il futuro, di creare nuovi prodotti, nuove idee. E quindi noi vogliamo aiutarli per prepararsi a quello che sarà un mondo, diciamo, sostenibile, immaginare un mondo sostenibile, dove le forme di welfare, le forme anche produttive saranno aggiornate. Quindi è un... Sa che è fantastico che lei a 95 anni stia immaginando il mondo del 2065, perché invece vedo molti trentenni o anche quarantenni o ventenni che non riescono a immaginare l'anno prossimo. Questo lo dico perché è vero che in questo paese ci vuole il ricambio, ma lei è la dimostrazione vivente che l'età non è un problema anagrafico, che c'è tanta retorica sui giovani, non giovani, ci sono giovani che sono nati vecchi e vecchi che restano giovani, per cui lo dico senza retorica, ma insomma quello che lei sta facendo è un'operazione bellissima, 12 milioni prima e 30 milioni di euro dopo per formare i giovani, formare gli insegnanti. Resti con noi, Golinelli, anche perché questo sarà poi un altro tema nella seconda ora. Vorrei capire come intendete formare questi giovani, questi insegnanti, e perché lei ha sentito questo bisogno? Perché cinicamente uno potrebbe dire: beh, ho già creato un impero, ho già lavorato tutta la mia vita, mi godo i prossimi 20 anni che mi restano in altro modo. Dopo il traffico. Focus Economia. Il sogno di questa settimana è 10, 100, 1000 Golinelli, perché voglio averne di imprenditori, ma non mi interessa quanti soldi ha messo, averne di imprenditori che a 95 anni si preoccupano di sapere quale sarà il futuro di questo paese nel 2065, e ci mettono anche i soldi, avere di politici che si preoccupano non del futuro elettorale del 2016, ma del futuro del paese, e via così. Golinelli, chi gliel'ha fatto fare? Come l'ha fatto fare? Il senso di responsabilità, ognuno di noi, imprenditori o meno, abbiamo una responsabilità verso la società e verso gli altri. Questo, io sono nato povero, ho fatto fortuna e quindi credo ridare alla società quello che la società ti ha dato. Quindi questo è un principio che io ho preso bene lavorando molto negli Stati Uniti, perché ho delle sedi anche lì, e quindi è nata l'idea di fare fondazioni tipo quello di Bill Gates, faccio per dire, ecco, ridare alla società. Quindi per questo l'opificio, opus, vuol dire opificio che guarda il fare, ecco, aiutare i giovani a conoscere, capire e fare. Ecco, io sono un imprenditore, quindi ognuno di noi, nei giovani, guardi, non è vero, i giovani vogliono fare e io vedo la creatività che loro hanno, quindi ora il problema è di dare noi gli strumenti per guardare il futuro. Quindi questo nasce l'obiettivo di, perché fare in laboratori, noi abbiamo i docenti, abbiamo un programma nazionale per la scuola, ne abbiamo parlato anche con il ministro Renzi, l'importante è imparare facendo, quindi noi abbiamo i laboratori dove materialmente i ragazzi possono lavorare sbagliando, imparando, perché si impara sbagliando anche. Sbagliando, ora... bravo Golinelli, bravo. Lei mito. Senta, ma credere nei giovani bisogna. Quindi... No, ma non aver paura a sbagliare, a fallire, chi fa sbaglia e chi non fa che non sbaglia mai. Golinelli, un consiglio ai giovani che ogni tanto sono demoralizzati. Lei, visto che il gruppo l'ha fondato nel 48, nel pieno dopoguerra, e che gruppo poi è diventato, a 95 anni investe 42 milioni di euro per creare i giovani che dovranno lavorare nel 2060. Prima, perché ne ho spesi 60, 70 prima, e quindi non è... Ecco, se lei dovesse, ai giovani che ci ascoltano, che sono un po' scoraggiati, un po' perché sentono la classifica di Focus Economia, un po' perché vedono che è un paese che non è un paese per giovani, che non ha pensato al futuro, lei che cosa direbbe a questi ragazzi, visto che lei era giovane quando la situazione era ancora più pesante? Lavorare solo, con serietà, avere un sentimento e credere anche, oltre che nel lavoro, anche ai valori della vita. Noi giovani, il loro contributo, ecco, sentire anche l'amore per se stessi ma anche per gli altri, quindi credere nei valori dell'etica, che ognuno di noi deve essere parte di una comunità, io dico nazionale, e logicamente questo penso che l'Italia possa dare un esempio a livello globale. Nel mondo di 7 miliardi o 10 miliardi di persone, io penso che l'Italia possa rappresentare un esempio per il suo passato, per la cultura del passato, e quindi conoscere. Lo slogan della Fondazione Golinelli è: la cultura nutre il pianeta, quindi ora i giovani possono dare il loro contributo allo sviluppo del paese e allo sviluppo anche a livello internazionale. Un po' di ambizione come italiani, bisogna insegnarla ai giovani, ecco. Quindi ai giovani, io ci credo ai giovani, ecco. Quindi perché diamo loro gli strumenti per, anche per loro stessi, personali. Ma a un giovane, intanto stanno scrivendo moltissimi giovani, almeno io prendo per vero, ho 26 anni, ringrazio Golinelli a nome della mia generazione, mi dicano una battuta, perché ma se un giovane si sentisse scoraggiato perché vede che tutto gli rema contro in questo momento, lei cosa gli direbbe in una battuta, Golinelli? Non abbiate paura, si sbaglia, se rema contro ha degli inconvenienti. Io credo che se non ci sono delle deviazioni di carattere, mentale, di salute, è vero e proprio, il nostro cervello siamo tutti uguali. Il problema quindi dei giovani, io non so come rispondere. Io sono nato povero, ero un giovane poco bravo, però ho scoperto l'interesse sul mondo scientifico, ho vissuto in un mondo motivato moralmente, come famiglia, però bisogna pensare che tutti noi possiamo crescere nella misura nella quale noi vogliamo, quindi non abbiate paura, ecco, i giovani, io detto da lei in questo senso qua, il mio vede è una specie di testamento personale, 95 anni. Non dica così, noi ci risentiamo anche nei prossimi anni, Guinelli, glielo assicuro, per vedere come andrà Opus 2065. Vedo gli ascoltatori, ma mi associo volentieri, ma senza retorica, lei è un vero mito, è forse il più giovane imprenditore che mi ha avuto negli ultimi anni o dall'inizio di questo programma. Grazie anche al cavaliere Marino Guinelli, tutti gli altri prendano esempio e qualcuno si faccia anche un po' di esame di coscienza, pubblica amministrazione, ma non solo, anche nel privato. Anche alcuni imprenditori, GR24. Il segnale orario vi è offerto da Gran Moravia, con l'etichetta multimediale, ti fa visitare la sua filiera ecosostenibile. Focus Economia. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni qui da Capri, dove si è conclusa da poco l'ottava edizione di Digitale per la Crescita, l'appuntamento annuale di Ernst & Young. Adesso ne parleremo. Vedo una petizione popolare: volete Guinelli sindaco di Roma, Guinelli presidente dell'ATAC. Ragazzi, ha già fatto tanto per questo paese e ha 95 anni. Comunque capisco la voglia di persone come lui. Per quello che riguarda i mercati finanziari, vi dovete invece accontentare di me: più 0,40% Milano, più 0,50 Parigi, più 1% Francoforte, giornata oggi priva di grandi spunti. Londra più 0,60, bene Saipem più 3%, Fiat Chrysler più 2,60 sulle ipotesi che la quotazione della Ferrari vada meglio delle previsioni. Saipem sale anche perché ha annunciato nuovi contratti per 600 milioni di euro. Bene anche Tod's più 2,60%, e per quello che riguarda i titoli in rialzo, CNH Industrial più 1,70%, Comunipol SAI, Telecom più 1,5%. Presidente Recchi, proprio qui da Capri, ha aperto anche sulla questione Metroweb. Steamark Electronics, dicevamo, Tenaris più 1,40%, Ferragamo più 1,20%, Unipol più 1,1%, come Enel e Finmeccanica. Negativa media set del 4,1%, sono andati bene gli abbonamenti premium, ma sotto le aspettative, 1.815.000. Ancora, per quello che riguarda Enel, mi chiedete, va bene il titolo Enel perché sono voci che stia per chiudere sulla vendita della controllata in Slovacchia. E per quello che riguarda l'euro su dollaro, c'è stato in effetti un rafforzamento dell'euro a quota 1,1370. Andiamo al nostro ultimo tema, che è un tema fondamentale per lo sviluppo di questo paese, ripeto, al di là di ogni retorica sul digitale. Qui c'è la sfida più importante anche per l'occupazione, anche per rendere competitivo il paese. Allora parliamone con chi fa gli onori di casa, e quindi l'amministratore delegato di Ernst & Young Italia, Donato Iacovone, buonasera. Buonasera. E dall'altro con chi, anche alla luce delle dichiarazioni che ha fatto, si è assunto un ruolo o ha chiarito quello che dovrebbe essere il ruolo che si assume la politica, nel caso specifico il governo, e quindi il responsabile economico del Partito Democratico, Filippo Taddei. Buonasera anche a lei. Buonasera. Allora, Iacovone, vediamo, il tema è molto vasto, è molto grande, Digitale per la Crescita sembra, o rischia di sembrare, il classico convegno in cui si parla di molto ma poi non si conclude nulla. In realtà, se posso permettermi, quello che abbiamo visto emergere in questi due giorni sono sostanzialmente quattro direttrici, ossia non si riesce a sbloccare una situazione così ingarbugliata e complessa come quella della digitalizzazione del paese, che non vuol dire solo mettere la banda larga, perché se nessuno la usa con la banda larga al massimo ci scarichi un film più velocemente, ma non è concluso nulla. E non si riesce a sbloccare se tutti, diciamo, i quattro soggetti, i quattro angoli del tavolo non si muovono in simultanea. E se ho ben capito, voi avete individuato nel corso anche dei lavori, da un lato il player, l'incumbent, chiamatelo come volete, Telecom Italia, o Telecom e qualche altro soggetto, cioè chi ha in mano soldi, struttura e investimenti per far la rete. Qui il tema è: fai prima le macchine o fai prima l'autostrada del sole? Secondo noi non è un tema, perché devi fare due cose assieme. L'autostrada del sole è stata fatta prima. prima che venisse utilizzata l'auto in quel modo, e probabilmente se non avessero fatto l'autostrada del sole non avresti avuto uno sviluppo così prorompente dell'auto. Allo stesso modo l'autostrada del sole si è fatta perché la Fiat già produceva auto. Secondo soggetto, il mondo rappresentato dall'information technology. La sensazione è che molte volte i responsabili dell'IT siano molto autoreferenziali, non riescono a spiegare veramente agli imprenditori e quindi ai soggetti interessati che cosa hanno in mano, e di conseguenza vengono subito deviati verso il responsabile IT, che è già una sconfitta. E adesso li vorrò dire anche perché c'è anche un'incapacità di essere empatici nei confronti di quello che vuole l'imprenditore. Terzo aspetto, l'imprenditore. Adesso lei ci racconterà, abbiamo dei tassi di digitalizzazione nei piccoli imprenditori che sono, non dico miseri, ma quasi, quindi inaccettabili. E appunto c'è la sensazione che l'imprenditore, quando arriva il responsabile IT, lo mandi direttamente nel suo ufficio, vada da quello che si occupa di computer, e così la digitalizzazione ce la siamo scordata. L'ultimo aspetto però lo lascio per Taddei, perché riguarda invece la leadership, cioè l'impegno che in prima persona devono mettere i policy makers, i governanti. Pensiamo a cosa fece Al Gore ai tempi di Clinton nel parlare per la prima volta di autostrade digitali. Ma restiamo sui primi tre. Avete anche voi la sensazione che o si muovono tutti e tre più o meno in contemporanea, o questa finestra dell'opportunità che abbiamo con un'economia che ha ripreso a crescere, con i tassi bassi, con l'euro debole, col petrolio basso, poi ce la giochiamo? Ma in questi due giorni quello che mi sembra sia emerso con chiarezza è che portare avanti il progetto della digitalizzazione del paese Italia è un progetto complesso, per le ragioni esatte che dicevi tu, Sebastiano. Cioè il primo tema è che noi abbiamo 23 milioni di italiani che non si connettono a internet, e quindi qui c'è un tema in cui ci ha detto bene il direttore generale della RAI, ma insomma tutti gli altri che sono intervenuti, anche Riccardo Luna, che lo sforzo che si sta facendo per spingere e per convincere gli italiani ad usare internet, e questi due verbi sono sempre stati usati, quindi spingere da una parte e convincere dall'altra. L'altro dato a cui facevi riferimento è quello del 5,6% degli imprenditori italiani che usano internet per il proprio business. Questo è un dato, è un altro dato allarmante, e qui di nuovo bisogna convincere. E qui io sono d'accordo con quello che dicevi, e cioè probabilmente, e faccio autocritica anche alla mia di società, a UI, cioè a noi che abbiamo come clienti gli imprenditori, alle società informatiche, che probabilmente la narrazione che facciamo a gli imprenditori è una narrazione troppo tecnica, e quindi se un imprenditore, che è un signore che fa scarpe, quindi parte da, voglio dire, la cuce, e viene fuori una scarpa, lui internet, il digitale, non capisce cos'è, finché non siamo capaci di convincerlo che con il digitale lui può fare più ricavi, può crescere, può guadagnare di più, o può evitare di uscire fuori dal mercato. Infatti aveva impressionato il dato che l'83% delle piccole e medie imprese che sono fallite non erano digitalizzate, il che non vuol dire che se sei digitalizzato non fallisci, però insomma vuol dire che l'83% non era digitalizzato, e allora potrebbe anche essere vista come una polizza assicurativa. Cioè, non è che voglio spiegarvi il vostro lavoro, però forse dovete spiegare un po' meglio che la digitalizzazione non è solo andare più veloce su internet, avere il listino che è fatto bene, certo che c'è anche quello, ma non è una brochure online, non è scannerizzare il prodotto e metterlo online, è diciamo diversificare, avere un aumento dei ricavi, oppure appunto avere minor rischi di fallimento. Noi abbiamo parlato a lungo di Industry 4.0, però se noi continuiamo a usare questi acronimi con i nostri imprenditori, non capiranno. Allora, vi manderanno sempre dal responsabile dei computer. Esatto, il quale ovviamente non ha nessun potere di cambiare le cose nell'azienda, o comunque non ha gli stessi poteri che ha il leader dell'azienda, che è l'imprenditore. Allora noi dobbiamo cercare di spiegare che non è solo mettere il proprio listino online, ma è di come lui si connette meglio con i propri imprenditori, di come mette sensoristica nella sua catena di produzione in modo da evitare rotture, o da prevenire rotture, o comunque insomma da rendere più efficiente la propria produzione, da come connettere con i propri clienti e avere feedback immediati dai propri clienti sui propri prodotti. Allora questo è lo sforzo che noi dobbiamo fare tutti. L'altra componente che tu citavi, ma insomma che forse va un po' esplosa, è che forse anche dal punto di vista educativo delle scuole e della formazione noi dobbiamo un po' rindirizzare la formazione. Sì, ma non gli studenti, gli insegnanti. Esatto. Gli studenti sono più digitali. E i formatori, perché ieri in un intervento è emerso molto chiaramente che spesso la formazione è più diretta, come dire, più un business dei formatori che dei formati. Allora questo è un altro tema sulle risorse FSE in modo particolare, ma in generale su tutte le risorse che noi spendiamo sulla formazione, forse dovremmo indirizzarle di più sul digitale, sulle nuove sfide e quindi creare una cultura di base che poi crea quella domanda, certo. E poi a domanda crescente c'è la risposta delle infrastrutture. E quindi risposta alle infrastrutture, ma anche per la politica, il fatto che il digitale crea occupazione. Ne parliamo dopo il traffico. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presento Focus Economia. Ultima parte di Focus Economia. Allora, dottor Iacovone, riassumendo in maniera un po' brutale, da un lato serve spiegare agli imprenditori che essere digitali non è una moda, non è fuffa, non è glamour, ma serve aumentare i fatturati, aumentare gli utili o ridurre i costi, mettere in sicurezza l'azienda, come abbiamo visto l'83% di quelle che sono fallite non erano digitalizzate. Da parte vostra e quindi degli operatori del mondo dell'IT serve un po' più di empatia e capacità anche di comunicare, di narrare a cosa serve questo digitale. Se mi passa il termine, facendo un po' meno le fighette, come si dice in un gergo poco economico, e lasciando da parte l'atteggiamento spocchioso, ti spiego io come va il mondo, se mi vuoi seguire bene, se no fatti tuoi, perché in questo modo perdete i clienti. Poi ci sono gli altri due angoli del tavolo. Da un lato, e ne vorrei parlare con Filippo Taddei, uno riguarda i policy makers, cioè i decisori politici. Abbiamo già detto che il digitale va spiegato meglio, va spiegato che attraverso la digitalizzazione del paese, l'utilizzo digitale, si crea occupazione, e questo è un grosso incentivo per la politica, per il consenso elettorale, per il consenso politico. E poi tu, governo, ci devi mettere la faccia, nel senso far vedere che sei il primo a crederci. Mettere la faccia vuol dire incontrare questi soggetti ciclicamente, non spot, non solo a livello elettorale, e quindi e fare pressione, diciamo così, sull'incumbent, sul grande soggetto, il grande player Telecom Italia o altri gruppi, che non si possono tirare indietro dicendo noi già offriamo quello che chiede il paese. Torniamo all'esempio delle autostrade. Non abbiamo fatto l'autostrada del sole in base al traffico esistente, l'abbiamo fatta con un progetto sul futuro. Taddei. Il governo riscopre quella che è una vecchia legge in economia, la legge di Say si chiamava nell'Ottocento, che è una cosa molto semplice: l'offerta crea la domanda. Chiaramente non tutte le offerte, ci sono le offerte di cose stupide, inutili, però se c'è qualcosa che è emerso nella discussione con massima chiarezza è proprio che su questo tipo di servizi, sul digitale, la domanda nasce, è lì, è immediata. Basta solamente spiegarla un po' meglio, essere un po' più efficaci, offrire l'infrastruttura che possa dimostrare immediatamente come quella servizio possa essere attivato, e se quello c'è effettivamente allora il mercato si sviluppa. Questo naturalmente politicamente vuol dire una cosa molto semplice, che è quella che è riconoscibile le affermazioni ben note del Presidente del Consiglio: l'investimento sul digitale è strategico, siamo in un ritardo che però ha a che fare anche con la dinamica generale della nostra economia. Cioè, noi abbiamo, non dimentichiamo mai, cioè noi abbiamo vissuto negli ultimi 5 anni un tracollo generale degli investimenti di questo paese, in cui oggettivamente era difficile pensare a riprogrammare, rinnovare. Ma quando questo trend in discesa vedi che si inverte, quando vedi che le cose ricominciano, beh, allora ti devi fare la domanda importante: quale occasione migliore di questa per effettivamente mettere il tratto di rottura strutturale, presentare una nuova infrastruttura e creare anche la connettività necessaria? Sì, leadership vuol dire anche che il Presidente del Consiglio si assuma, al di là del fatto che tweeti tantissimo, lo sappiamo tutti, anche troppo forse. Questa è una mia assoluta opinione, però dico, mettere la faccia vuol dire anche dire ok, adesso Allora, voi incontrerete me, cioè voi in politica, leader del settore, quindi imprenditori da un lato, grandi player dall'altro e società di IT che devono fare consulenza. Vediamoci, metto la mia faccia, questa è l'agenda e andiamo avanti su questo. La faccia in politica si misura in due modi, si misura con le risorse di tempo e finanziarie che metto a disposizione. Qui ci sono risorse finanziarie effettivamente per condurre questa grande trasformazione della nostra autostrada digitale, esattamente nella consapevolezza che se c'è quella si svilupperà tutto il resto, ma non è l'unica risorsa che viene messa lì, esattamente perché ti rendi conto che c'è bisogno anche di un salto culturale che passa per gli studenti, i ragazzi, i formatori, le scuole e le imprese insieme. Misuriamo questo impegno, usiamolo. Quando nella riforma della scuola si mettono 100 milioni per l'alternanza scuola-lavoro, in realtà cosa si sta facendo? E 100 milioni per le scuole, esattamente perché si riconosce che è nelle scuole dove deve esserci la prima molla di, non dico informazione, ma di apertura verso questa, verso la nuova tecnologia e le sue potenzialità. Investi su quello, ci metti le risorse e investendo su quel tipo di accoglienza stai cercando di trasformare esattamente le professionalità che ci sono. A questo si aggiunge tutto il resto, cioè noi sappiamo il paese è per molti aspetti già molto più avanti rispetto a quello che noi facciamo. Ora noi siamo in ritardo su tante cose e però vediamo che ci sono dei segnali di cambiamento gigantesco che vanno non solo intercettati ma sostenuti. Parlano tutti di big data, parlano tutti di grande gestione dei dati, quelli che si diventeranno disponibili con la nuova infrastruttura digitale, con la nuova rete super potente, quella che arriverà. Bene, noi non abbiamo professionalità per gestirli, noi siamo un popolo di straordinari matematici, statistici, persone che però non vengono formate a gestire questa quantità di dati. Bene, questo era vero fino a 2 anni fa. Da 2 anni cominciano a nascere programmi universitari che intercettino non solo la domanda ma la professionalità da sviluppare. Allora, per una volta tutto va nella stessa direzione, gli investimenti ripartono, le risorse ci sono, le vuoi indirizzare verso l'infrastruttura e hai anche la capacità di investire in professionalità che possano gestire queste cose. Sì, tutto. Vabbè, dai, non è che tutto va bene, madama la marchesa. Gufo non ci potete dare perché noi l'abbiamo usato in tempi non sospetti. Il gufo è il brevetto nostro. Per cui lasciamo gli animali fuori dalla discussione. No, ma esatto, restiamo invece su questo tema perché è vero quello che dice che bisogna intercettare questo momento. Vorrei capire la posizione nei confronti di Telecom. Giuseppe Recchi, presidente di Telecom Italia, nei nostri studi disse: ma insomma, noi con il piano che abbiamo messo, quasi 3 miliardi di investimenti, 10 miliardi di investimenti sul numero di anni, noi, adesso la semplifico molto, noi digitalizziamo un paese per quello che il paese serve, cioè è inutile che io ti dia una banda larga quando tu in realtà non stai ancora mettendo la brochure sul sito. L'obiezione che abbiamo sempre fatto è: attenzione, perché in questo modo giustifichi, diciamo, allora non avresti fatto l'autostrada del sole, torniamo all'esempio di prima, avresti fatto la statale Milano-Roma, perché a quel tempo viaggiavano con la 500. Il grande Henry Ford diceva: io se avessi dovuto fare quello che mi chiedevano i clienti avrei prodotto carrozze e basta, e non avrei mai fatto la Ford T. Vi dispiace un po' che non sia ancora pubblica Telecom, che non ci sia un soggetto pubblico su cui diciamo, operare direttamente invece di andare in trattativa con Metroweb, con la Cassa Depositi e Prestiti, che vorresti usare come... Prego. Guardi, come per la mia posizione politica non è molto elegante che commenti su una singola impresa, però mi fa piacere commentare sulla strategia. Con tutto il rispetto per strategie aziendali, anche di grandi operatori, quelle che sono le esigenze del paese, l'offerta che crea la domanda è una decisione politica che sta al più alto livello strategico, che sta alla presidenza del Consiglio, naturalmente in accordo con i vari ministri competenti. Ora, su questo il presidente del Consiglio è stato piuttosto chiaro. È stato chiaro nel dire che A, ci mettiamo risorse straordinarie, B, questa infrastruttura digitale può andare molto. Noi vogliamo essere, diciamo, alla frontiera, trovarci tra 5 anni, non ad inseguire la frontiera, ma essere la frontiera. Ora, questa può essere una scelta discutibile e si può certamente ritenere che questo sia uno spreco di risorse, però la scelta del governo italiano nella sua piena autonomia e non è una scelta solamente sulle parole, è una scelta sostanziale da risorse finanziarie per gli investimenti e risorse professionali per la formazione di quelle persone che effettivamente questa autostrada poi ci devono camminare, la devono utilizzare, devono dimostrare al resto del paese che ci sono un sacco di svincoli, che questa autostrada possa essere utilizzata per raggiungere i luoghi più importanti impensati, che magari sono anche quelli con le potenzialità inespresse più interessanti. Allora, grazie e in bocca al lupo, soprattutto perché il lavoro da fare è tanto. Grazie quindi all'amministratore delegato che fa gli onori di casa di Enel Young Italia, Donato Iacovone. Grazie a Filippo Taddei, responsabile economico del PD. Grazie a voi. Grazie a voi. Ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Ringrazio come sempre Barbara Bianchi e Mauro Del Corno per l'assistenza in redazione, Pietro Lacorte qui a Capri per l'assistenza in regia e Luca Buratto per l'assistenza nella bassa frequenza. Da Sebastiano Berigioni vi auguro di una buona serata e buon fine settimana, soprattutto per chi lo passerà lavorando. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.